gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte a tutti e bentornati qui su Ciao Como Radio a un'altra puntata delle buonanotti di allineamenti. Siete qui con Mendo. Buonanotte a tutti. Beh, questa sera vi volevo parlare di un argomento a me molto vicino, ovvero il successo. Ultimamente sto leggendo un libro fantastico che si chiama Barking Up the Wrong Tree, che parla di come ottenere successo, quali sono le vie per il successo, e molte volte non sembrano le più vicine. E poi vi volevo raccontare un altro paio di storie, una su Logan Paul, non lo so se lo conoscete, uno youtuber, e un'altra su un altro libro che sto leggendo. Ma per il momento vi lascio con la fantastica Maggie Rogers e Alaska, nome della canzone. Buon ascolto a tutti, ci sentiamo a brevissimo. Took my breath away, moving slowly through westward water over glacial plains, and I walked off you, and I walked off an old me. Oh me, oh my, I thought it was a dream, so appena ascoltato Maggie Rogers con Alaska. Bentornate alle buonanotti di allenamenti. E come vi stavo anticipando prima della canzone, questa puntata sarà sul successo. E la definizione di successo credo mi sia stata data nella vita dal nostro fantastico amico Gastone, che ascoltate molto spesso su questo programma. Me la ricordo ancora benissimo, a 16 anni più o meno, non era ancora filosofo il ragazzo, ma lo sarebbe diventato un giorno. Gli dissi: beh, io credo molto nei miei amici, faranno delle grandi cose nella vita. E Gastone mi ha guardato, fondamentalmente mi ha ghiacciato con questa frase, dicendomi: ma grandi cose cosa significano per te? E gli ho detto: grandi cose, non lo so, diventare fortissimi nel loro lavoro, nello sport, in qualsiasi cosa che vogliano fare. E lui mi ha detto, ma quello non è un successo, è diventare grandi e fare quello che vogliono, non è una stima di quello che per loro possa voler dire successo. Ed è vero, il successo è indefinibile, il successo viene dato dalla stima che tu dai al tuo successo, può essere un successo personale, un successo sportivo, un successo familiare, un successo emotivo. Il successo è dipendente dalla persona. E quindi già qua entriamo in un mondo molto labile, molto astratto, no? Cos'è il successo? Il successo lo dai tu, lo decidi tu. Però ci sono delle stime di successo, grandi atleti, grandi personaggi famosi, possiamo definirle persone di successo. Riusciamo in qualche maniera a dare una standardizzazione di quello che per noi è successo. E come vi stavo anticipando, sto leggendo questo libro che si chiama Barking Up the Wrong Tree, è praticamente uno scrittore americano che racconta di come in verità il successo sia ottenibile in tantissime maniere e non sempre esista una strada giusta per ottenerlo. Un paio di aneddoti che mi hanno abbastanza entusiasmato sono: il primo è questa corsa in America che praticamente va dalla West alla East Coast in bicicletta, una corsa di 12 giorni in cui i corridori, fondamentalmente in bicicletta, non hanno tempo, non hanno limiti di tempo, devono solamente andare e praticamente pedalano per 21 ore al giorno, dormendo 3 ore per non essere sorpassati, e continuano così per 12 giorni di fila, una roba devastante. E c'è questo atleta che l'ha vinta 5 volte, una volta vincendola con un distacco di 13 ore dal secondo. Provate a pensare a vedere una gara in cui arriva il primo e il secondo arriva dopo 13 ore. E fondamentalmente lui riesce in queste grandi imprese di altissimo livello fisico perché è completamente pazzo. E quando si allena, per esempio, con i suoi altre persone che si allenano con lui, lui impazzisce, incomincia a gridare contro le strisce pedonali, si ferma e prende a calci le cassette delle lettere perché pensano che gli vadano completamente contro. Ma questa sua completa follia praticamente lo distacca totalmente dal senso del dolore fisico o dell'aver bisogno di dormire. È totalmente pazzo e quindi continua a manetta. E quindi tante caratteristiche che noi pensiamo di avere, che possono essere sbagliate cosa, possono diventare nei giusti momenti i nostri giusti punti di forza, qualcosa che in verità ci arricchisce, ci accresce. Un'altra di queste storie è, rispetto ai presidenti americani, è stato fatto uno studio che sulla leadership, dove fondamentalmente proprio su questi tratti caratteristici che possono essere fortemente negativi, sono in verità molto positivi. Per esempio Churchill, presidente inglese, non americano, era completamente paranoico, però è stato l'unico che nel momento in cui Hitler è salito al potere ha detto questo ci porterà alla rovina, mentre tutti gli altri lo stavano appoggiando. Ma lui era paranoico, era sulla difesa sempre continuamente ed è stato l'unico a condannarlo dal primo minuto. E così questo studio riportato sui presidenti americani ha praticamente determinato che esistono delle leadership completamente distruttive, delle leadership in verità che seguono dei canoni e che quindi riescono a integrarsi bene nel sistema. Pensate a Trump. Trump è diventato uno dei più grandi leader al momento, ma la sua leadership è completamente distruttiva, però porta del cambiamento, positivo o negativo che sia. Un'altra riflessione fantastica che è uscita da tutto questo ed è quella che vorrei donarvi stasera è: cosa può portarvi e dove vi può portare arrivare al successo? Il mio successo personale, dove voglio arrivare, voglio che non mi porti alla mia insanità personale. Credo che bisogna porre dei limiti a dove si arriva. E sicuramente voglio tanto da questa vita e credo che un po' tutti vogliamo tanto, però bisogna porsi dei limiti sulla capacità di essere e di non farsi detrarre. E un libro che sto leggendo adesso si chiama Il fallo delle vanità. E parla di questa storia di questo uomo che vive a Wall Street, cioè lavora a Wall Street e vive a New York in questo appartamento bellissimo, e lui si autodefinisce uno degli imperatori dell'universo e lo sente perché sta guadagnando un botto di soldi, sta avendo sempre più successo, sta diventando sempre più grande, sta quasi per portarsi a casa il suo primo 1,5 milioni e vuole crescere, crescere ancora di più. Si è comprato questa casa da 3 milioni e si sente Dio sceso in terra, e ha la moglie e l'amante, e a un certo punto investe una persona di colore nel Bronx e la uccide. E il suo scandalo diventa mediatico e tutti lo mettono sulla pubblica gogna e ritorna umano. E quando ritorni umano, dopo che ti senti Dio dell'universo, se non ti sei tenuto un qualcosa in questa continua ricerca di successo, che ti rifaccia sentire umano. Credo sia devastante. Credo che ti faccia perdere qualsiasi sentimento di attaccamento verso chi sei, l'umanità, e tornare giù è un bel picco, una bella discesa. Quindi per chiunque di voi cerchi nella vita nel successo, perché tutti lo vogliono, alcuni di noi però ce l'hanno dentro, lo bramiamo, lo vogliamo, tenetevi qualcosa che vi faccia sentire umani. E con questa fantastica perla di saggezza che dovrò applicare molto in questa vita, vi auguro una bellissima buonanotte. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.